Iran al voto sotto l'ombra di Soleimani, del Boeing, la crisi economica tra tendenze conservatrici e voglia di riforme. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Der tiefe Schmerz über den gewaltsamen Tod so vieler Mitbürger, den die Menschen in Hanau hat empfinden, den empfinde ich und den empfinden Menschen in ganz Deutschland. When Iranians go to the polls on February 21st to elect a new parliament, they will be choosing almost exclusively from conservative candidates. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani in regia. (349) 238 6666 per porre domande, commentare e criticare i temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo. Già lo avete sentito dai titoli, ci concentreremo sulla giornata preelettorale. Domani gli iraniani vanno alle urne per le elezioni parlamentari. Di per sé politicamente non hanno un valore assoluto, però dopo quello che è accaduto, mesi di proteste, centinaia di morti, l'uccisione del comandante Soleimani e poi l'abbattimento del Boeing, insomma, queste elezioni assumono, pur ristrette nell'ambito parlamentare, un significato importante e ci teniamo, come dire, a darvi anche degli strumenti per poterle meglio leggere e interpretare. Toccheremo anche altri temi nel nostro ricco termometro internazionale. I commenti, dicevo, li potete fare al 349-238-6666, ma anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Detto ciò, visto che il termometro è piuttosto ricco, velocissimi a misurare la temperatura. Partiamo dalla notizia che ci arriva dalla Germania, la strage di Hanau. Lo avete sentito dal GR, 9 persone sono state uccise, 5 rimaste ferite. Il tutto avveniva ieri sera, 2 sparatorie avvenute nella cittadina che dista circa 20 km da Francoforte. Forse avrete anche letto e sentito di quel manifesto piuttosto farneticante, delirante, anche difficile trovare i termini, comunque dell'attentatore. L'attentatore è un cittadino tedesco, Tobias Rathien. È interessante, chi ha avuto in mano le 24 pagine di questo manifesto ha immediatamente colto quelle che sono profonde radici xenofobe che hanno mosso l'attentatore. La stessa procura tedesca sta indagando per terrorismo, a dispetto di chi anche letto qualche voce italiana che sta tentando di derubricare la cosa come un gesto di un folle. Già la politica tedesca sta invece parlando apertamente di quello che è accaduto, cioè un attacco terroristico dettato da xenofobia. Certo, a ciò si aggiunge il profilo psicologico dell'attentatore, questo Tobias Rathien, che aveva manie complottiste, che sosteneva che le menti fossero controllate, vi fossero delle cospirazioni, basi segrete, insomma un profilo particolarmente fragile e delicato. Detto ciò, in uno dei passaggi di questo lungo manifesto, scritto in un tedesco perfetto mai sgrammaticato, l'attentatore sostiene di dover ripulire la Germania, visto che non è possibile espellere i tanti immigrati presenti, e da ciò appunto la violenza cieca che ha colpito questi due shisha bar, che erano frequentati soprattutto da cittadini di origine turca e curda. Abbiamo raggiunto un collega tedesco, Max Geppert, il giornalista di Hanauer Anzeiger, il quale ha provato immediatamente, nelle ore successive all'attacco, a fare il profilo di questo killer. Sentiamo. We just able to say that what the officials told. Per ora sappiamo solo quello che ci hanno comunicato le forze dell'ordine. Ha 43 anni, è tedesco e vive qui a Hanau. Probabilmente frequentava un ambiente in cui circolano idee di estrema destra. Aveva il porto d'armi perché praticava il tiro a segno. Sappiamo inoltre che si è ucciso dopo il fatto e che nei giorni precedenti aveva postato online dei video in cui esponeva la sua ideologia. Where he tells about his ideology. La voce di Max Geppert, giornalista di Anauer Anzeiger, non particolarmente lucida, una voce commossa, quasi rotta. In effetti l'atmosfera nella piccola città tedesca è assolutamente scioccata, perché nessuno si aspettava un atto così violento. Sentite come lo stesso collega descrive proprio l'atmosfera della città. It's hard to describe. We're in the redaction very shocked. Ma è difficile da descrivere. Qui in redazione siamo tutti scioccati. In generale in città siamo tutti molto colpiti. In molti ci hanno scritto descrivendoci il loro stupore e la loro rabbia. Tutti sono increduli, anche i politici. Il razzismo qui c'è come ovunque nel mondo, ma finora non si era mai verificato un episodio del genere o neanche lontanamente paragonabile. Questo è il primo dossier che vi sottoponiamo, ci stiamo già lavorando, stiamo cercando di costruire un lungo, ricco approfondimento su quella che è la destra xenofoba, soprattutto in Germania. Ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, torneremo a illuminare questo aspetto oscuro che ancora alberga in alcuni paesi europei e di tanto in tanto mostra la sua violenza. C'è un altro dossier che, lo sapete, curiamo oramai da parecchio tempo, molto da vicino, e continueremo a farlo, perché novembre è lontano, ma neanche così tanto. Ieri notte, se siete nottambuli, sono certo che vi sarete sintonizzati, se possibile, su qualche emittente statunitense, vi è stato un dibattito televisivo fra i democratici, i candidati democratici. E direte voi, beh, fin qua nulla di strano, se non fosse che è apparso lui, il vero deus ex machina della compagine democratica negli Stati Uniti, cioè Michael Bloomberg. Lo sapete, lo abbiamo raccontato tante volte, fino adesso si era tenuto alla larga dalle primarie dei democratici stessi, tentando un colpo a sorpresa e probabilmente pensando di poter ottimizzare, massimizzare, capitalizzare quella sorta di cannibalismo che si era dimostrato naturale, fisiologico, fin dall'inizio nell'ambito democratico. Ebbene, non a sfida in TV a Las Vegas per i candidati democratici, Michael Bloomberg, il suo debutto, l'Economist lo ha definito traballante e ha sottolineato il prestigioso settimanale economico britannico che probabilmente Michael Bloomberg non è esattamente tagliato per i dibattiti televisivi. A sottolineare le vulnerabilità del ricco miliardario americano è stata soprattutto un'altra delle candidate democratiche, Elizabeth Warren, che in qualche modo ha guidato un fuoco di fila degli altri candidati proprio verso Michael Bloomberg. In particolare la Warren ha sottolineato i commenti spesso sessisti da parte di Bloomberg, la sua arroganza, e ha detto: attenzione, non possiamo consegnare il paese da un miliardario arrogante e misogino a un altro, facendo riferimento al presidente Donald Trump. Bloomberg ha provato a ribattere sostenendo per esempio che nelle sue aziende c'è perfetta parità di genere, che gli stipendi delle donne sono equiparati, ma se andate a vedere un'interessante infografica realizzata dal New York Times, in buona sostanza la Warren uscirebbe assolutamente vincitrice da questo confronto televisivo. Per stare però sui numeri, che sono sempre importanti, gli ultimi sondaggi danno a Bloomberg il 19% dei consensi a livello nazionale alle spalle di Bernie Sanders con il 31% dei consensi. Joe Biden, l'ex presidente, scivola al terzo posto con il 15% dei consensi. Vi ricordo che il prossimo banco di prova dopo Iowa e New Hampshire sarà il Nevada, si vota sabato 22 febbraio, quindi ormai i candidati sono già proiettati al prossimo appuntamento. A questo punto apriamo brevemente, ed è l'ultima notizia del nostro termometro, il capitolo libico, perché ieri vi davamo conto di quell'attacco al porto con 3 morti e 5 feriti. È stata bloccata per alcune ore un'attività importantissima, quella di ingresso e di uscita delle merci e non solo dal porto, che è una delle poche valvole che permettono l'osmosi del fragile governo di Sarraj, il dialogo con l'esterno, anche commerciale evidentemente, quindi vitale. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Mustafa Habibi, che è il general manager del porto di Tripoli, che ci racconta quali sono le condizioni in queste ore. Sentite. Ora il porto di Tripoli è aperto e in condizioni di lavoro normali e tutto il servizio prosegue, le navi attraccano e salpano e anche l'attività di carico e scarico sta avvenendo in condizioni normali. Quanti danni può aver causato l'attacco di ieri? Lo ricorderete, all'inizio Al-Arabiya aveva diffuso la notizia che sarebbe stato colpito un cargo militare turco che portava armamenti e munizioni per i turchi presenti nel territorio di Tripoli. Poi si è capito, si è intuito che non era così, era stata colpita la banchina. Alla fine le agenzie concordavano sul fatto che sono stati colpiti vari depositi, tra cui probabilmente anche un deposito di armi. Quanti danni ha causato l'attacco? Non posso dirvelo precisamente in questo momento, perché gli ingegneri stanno lavorando per stimare i danni dell'accaduto e mi diranno in questi giorni. Ma ora non posso dirvi esattamente quali sono i danni, perché ancora non ho informazioni complete. La voce di Mustafa Habibi, general manager del porto di Tripoli, raggiunto da Giulia Cannizzaro. Quante navi ci sono adesso nel porto? Lo sapete, ieri ve l'abbiamo detto, erano state immediatamente evacuate per paura di ulteriori attacchi. E adesso? Ora abbiamo circa 4 navi all'interno. Ci sono carichi di bestiame, carichi generali e anche qualche petroliera. Fuel tanker. Peraltro, non troppo distante anche dal luogo dell'esplosione, vi era un cargo italiano, la Asso 25. Abbiamo chiesto lumi sulla presenza di questa nave commerciale italiana, sentite. Sì, sì, l'Asso è già all'interno del porto. È un rimorchiatore. In generale, al porto, alcuni container hanno riportato danni, così come alcuni carichi e alcune auto. Ci sono stati anche alcuni morti e alcuni feriti. Allora, questo è il nostro lungo termometro internazionale di questo giovedì, il giorno preelettorale per l'Iran, per eleggere i nuovi parlamentari. 349-238-6666, invece per voi, per i vostri commenti e le vostre domande. Warren e Sanders hanno proposte socialiste, così un ascoltatore che commenta il dibattito televisivo di ieri, assegnare il 40% dei posti dei CDA ai sindacati, anche no. Poi c'è un ascoltatore che ci chiede lumi su quello che è un nostro vezzo. Voi sapete che all'inizio di questa trasmissione diamo il benvenuto al nostro magnifico lavoro, amiamo così tanto questo lavoro che ci siamo affidati a quelle parole, quelle di John Bercow, l'ex speaker della Camera, che dice welcome back to our pleasant work, e quindi volevamo, con questo spirito di comunione con un personaggio che è stato veramente un personaggio, peraltro sta scrivendo anche un libro, e vi devo confessare, l'abbiamo cercato a lungo per un'intervista ma fino adesso non ci siamo riusciti, insomma, questo personaggio che è andato alla ribalta delle cronache politiche quando, con un braccio di ferro piuttosto sostenuto con Boris Johnson, è diventato un personaggio mediatico. E alla fine della trasmissione più attenti noteranno che a un certo punto Roberta Frisani perentoriamente mi dà un ordine, facendo appunto quello, ecco, facendo pronunciare a John Bercow il suo order. È un vezzo, per carità, un vezzo estetico, linguistico, sonoro. Ci piaceva quel personaggio, dava, come dire, una, un tocco di colore a temi che molto spesso invece sono piuttosto pesanti e delicati. C'è una domanda interessante alla quale non riesco a rispondere adesso, ma prometto di farlo, se non già durante la trasmissione domani. Come stanno reagendo i giornali islamici a proposito dell'attentato in Germania? Quindi cercheremo di spulciare nel mondo arabo come viene raccontata questo attacco terroristico, quello che secondo la procura tedesca è un attacco terroristico. Detto ciò, è ora di aprire la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Dobbiamo andare a Teheran. E vi faccio andare a Teheran con la voce e il commento di Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24 Ore. Roberto, buongiorno e ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora, Roberto, sei arrivato da pochissimo, ma so che hai già consumato parecchio la suola delle scarpe per cercare di capire un po' l'umore, il polso degli iraniani che domani sono chiamati a un appuntamento che di per sé politicamente non ha un valore altissimo. Certo, non sono le presidenziali, però dopo tutto quello che è accaduto, come dire, hanno sicuramente un certo peso. Che aria tira a Teheran, Roberto, poche ore prima dell'appuntamento elettorale? In questo momento mi trovo nel quartiere di Saltanatov, centro-nord di Teheran, certo. Si sarebbe tradotto in Borgo Reale, che viene tradotto quartiere Pasdaran dopo la rivoluzione, ma che non ha nulla a che vedere. L'attesa, vi dirò, gli iraniani in questo momento con cui ho parlato sono parecchi oggi, sono molto disponibili, hanno paura, sono più spaventati per le due vittime da coronavirus in Iran piuttosto che per le elezioni, perché i giovani, soprattutto a queste elezioni, non vogliono partecipare. Vale a dire, quella che sembra la cronaca di una vittoria annunciata del blocco conservatore e ultraconservatore non inciderà più di tanto sugli assetti. Sarà fondamentale l'affluenza che dovrebbe in teoria legittimare questa, diciamo, presa di posizione verso gli ultraconservatori. E questo è il grande tempo. Canadei ha invocato il diritto di voto dei giovani, dovere anche di voto, ma da quanto risulta, da quanto sente la popolazione, i giovani non hanno molto voglia di andare a votare in un'elezione che, ripeto, la vedono scontata, piena tante, anzi troppe bocciature. Allora Roberto, buongiorno, la linea purtroppo non ci sta supportando, ti abbiamo udito, ti abbiamo ascoltato perfettamente, ma cerchiamo di ristabilire un collegamento migliore con Roberto Bongiorni, lo ricordo, inviato del Sole 24 Ore, che iniziava a dare come dire, i primi tratteggi a una fotografia di che cosa? Beh, dei Teheran il giorno prima di un voto che dal punto di vista politico, visto, sapete come funziona il sistema politico iraniano, c'è cioè il Consiglio che va a stabilire quali candidati possono depositare la candidatura, molti sono stati estromessi, c'è stato nei giorni scorsi un presidente Rouhani che ha cercato di invocare una maggiore apertura nella scelta dei candidati per far risaltare tutte le anime di questo paese. E detto ciò, Roberto Bongiorni ci ha fornito un primo tassello, a voi gli altri 349-238-6666. Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, ha posto l'accento su quello che è forse il problema maggiore, cioè l'astensionismo. Molti riformisti non vogliono assolutamente non soltanto candidarsi, ma addirittura andare a votare. E questo può essere un vulnus, un cruccio per Khamenei. Roberto Bongiorni, vediamo se la linea è migliore. Sì, buonasera a tutti, eccoci, sono di nuovo qua. Perfetto, decisamente meglio. Sei riuscito a capire, ci dicevi un altro tassello che è particolarmente importante e interessante, c'è quasi più tensione verso i due casi di coronavirus che dell'appuntamento elettorale di domani. Le campagne dei vari candidati, quelli che sono stati selezionati dal Consiglio dei Guardiani, come dire, si sono concentrati su tematiche particolari o come dire, era una campagna elettorale di routine, ecco? Ma una campagna elettorale di routine in un momento non di routine, quindi molto accesa dei toni antioccidentali, accesa sulla sfida del nemico esterno, del grande Stato e così via. Però c'è una grande novità, anche tra il blocco dei conservatori. Mai come oggi c'è stato un ricambio generazionale dei candidati nelle file dei partiti conservatori e ultraconservatori. Insomma, Khamenei, la guida spirituale, sembra che abbia anche influito su questo passaggio, perché in un paese di 80 milioni di abitanti, dove i giovani sono una parte fondamentale e decisiva nel processo elettorale, occorre anche cambiare con un salto generazionale nei partiti conservatori. Certo. Ecco, il fatto comunque che siano giovani non significa che non siano stati allineati e istruiti. Quello che qua ha dato fastidio agli altri partiti, non solo i riformisti, ossia quelli di Khatami, ma anche i moderati conservatori, è l'eccessiva severità, usiamo un eufemismo, fatta dal Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, questo organo deputato a selezionare i candidati, perché ne ha bocciati oltre 7.000 su 14.000, 15.000 è un po' troppo. Eh sì, il 50% era proprio quella, se abbiamo letto bene tra le righe, le dichiarazioni del presidente Rouhani, quello che Rouhani stesso voleva evitare. Qualche ora fa, Roberto, hai incontrato e intervistato un docente universitario, insegna scienze politiche all'università lì di Teheran, Alireza Jamshidi. E facciamo sentire la sua voce, perché da un lato spiega meglio il meccanismo elettorale e dall'altro apre un po' uno scenario sull'ambiente conservatore. Sentite. In base a quanto prevedono le regole elettorali iraniane, ogni cittadino può candidarsi per le elezioni e non si richiedono requisiti specifici per candidarsi. Quindi il numero iniziale dei candidati è molto elevato ed è normale che dopo le valutazioni del Consiglio dei Guardiani il numero degli esclusi sia leggermente alto. Negli ultimi 7-8 anni, sia le elezioni parlamentari sia le elezioni presidenziali sono state vinte dai moderati, più vicini ai riformisti. In questo momento sono loro ad aver paura di non vincere di nuovo. Così come nelle elezioni precedenti, sia parlamentari sia presidenziali, in cui avevano vinto i fondamentalisti, sono stati loro a protestare di più, perché avevano paura di perdere il potere. Avete sentito la voce di Alireza Jamshidi, professore universitario, docente di scienze politiche, testimonianza raccolta da Roberto Bongiorni, che è in diretta con noi da Teheran. Lo ricordo, domani si vota per le parlamentari. Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore. Il capitolo economia è forse la più grande fragilità dell'Iran, complice il ritiro dal nucleare, l'isolamento internazionale su cui gli Stati Uniti hanno fatto infilare Teheran. Se ne è parlato, se ne parla, possono le elezioni parlamentari in qualche modo, e non so come, dare una scossa a un'economia stagnante, dare un'apertura verso l'esterno, secondo te? Guarda Giampaolo, ti dirò che oggi girando un po' per i vari quartieri, cioè, tu camminando, ho parlato, sono stato nei mall, centri commerciali, da qualche imprenditore, e quello che mi ha sorpreso qua a Teheran è che sì, che i prezzi sono alzati, il resto è svalutato, ma gli iraniani a Teheran non si lamentano più di tanto, perché paradossalmente le sanzioni hanno favorito una serie di aziende iraniane, perché gli hanno eliminato tutta la concorrenza estera e stanno producendo prodotti non certo di qualità, ma comunque che vendono realizzati in Iran. Tant'è che per un paese di 80 milioni di abitanti, con così tanti consumatori, la crisi si sente a Teheran, ma non è così grave come io e come forse altre persone si immaginavano. Sì. Sì, e questo è un aspetto interessante. Peraltro, Roberto Bongiorni, hai un punto di vista privilegiato, ma dobbiamo ricordarlo, sulla capitale, poi le zone rurali probabilmente hanno, anzi sicuramente hanno anche dinamiche economiche diverse. Roberto, noi ci sentiremo domani per capire meglio come si sta svolgendo anche il turno elettorale. Qualche analista ha sussurrato che vi potrebbe essere qualche manifestazione ancora una volta. Vi ricordate settimane fa parecchi manifestanti, Teheran e non solo, erano riempite da migliaia e migliaia di manifestanti, da 600 a oltre 1000 morti secondo le fonti. Per cui Roberto, ti lascio le tue interviste, al tuo lavoro, e ci sentiamo domani. Grazie a tutti, buona serata. Grazie mille quindi a Roberto Bongiorni. Io direi, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire l'informazione finanziaria, poi apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Stiamo sempre in Iran, però proviamo a mettere il grand'angolo, l'analisi. Lo sapete, questo programma ama alternare le voci dal campo, il terreno, l'obiettivo macro, il teleobiettivo se preferite, e poi appunto il grand'angolo per capire meglio le grandi dinamiche di questo importante paese. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Oggi a Nessun Luogo è Lontano cerchiamo di analizzare l'importanza delle elezioni parlamentari iraniane di domani, che arrivano dopo una serie di eventi che hanno letteralmente sconvolto il Medio Oriente allargato. Lo ricorderete, l'uccisione del generale Soleimani, l'abbattimento per errore del Boeing da parte di Teheran, ma prima ancora lunghissime proteste di piazza da parte dei cittadini iraniani che soffrono di una condizione economica e di isolamento. Il tutto arriva, questo per stabilire anche maggiori connessioni a livello mondiale, dopo quel ritiro da parte di Donald Trump sull'accordo del nucleare, che ha messo assolutamente, è il caso di dirlo, l'Iran in un angolo che ultimamente ha cercato qualche sponda, soprattutto a livello europeo. Dobbiamo ricordare che gli Stati Uniti vanno a punire anche chi in qualche modo tenta di tessere relazioni autonomamente, relazioni commerciali intendo, con l'Iran, ragion per cui evidentemente la prima vittima di questa situazione, di questo isolamento, è la popolazione. Popolazione che è molto giovane, che come ci raccontava Roberto Bongiorni, come dire, ha un atteggiamento di disincanto verso questa tornata elettorale da una parte, dall'altra invece abbiamo visto, come raccontava Roberto, un fronte dei conservatori che ha rinnovato i propri candidati, e questo è un elemento evidentemente di novità da parte del regime, vuole in qualche modo dare una sbiancata alla facciata per attirare nuovamente giovani al voto. L'Ayatollah Khamenei si è dato parecchio da fare, soprattutto su Twitter nei giorni passati. La come dire, retorica non aveva nulla di nuovo, il grande nemico rimangono gli Stati Uniti e in particolare il presidente Donald Trump. Per offrirvi un altro punto di vista abbiamo raggiunto nuovamente Gambar Naderi, giornalista di Press TV, TV iraniana, il quale fa inizialmente un ragionamento su quello che è un rischio che il regime vede, perché potrebbe causare delegittimazione, scusate, proprio al nuovo Parlamento, cioè il caso in cui vi fosse una scarsa affluenza di votanti. Sentite cosa dice. Usually in the capital Tehran we have a lower turnout compared to the rest of the country, but solitamente nella capitale Teheran l'affluenza è più bassa rispetto al resto del paese. Ma è importante sottolineare una cosa. Le elezioni parlamentari sono estremamente importanti per le città e i paesi di provincia. Lì la competizione è estremamente dura e la partecipazione al voto è solitamente più elevata rispetto a quella della capitale Teheran. Se volete sapere la mia opinione, penso che l'affluenza nella capitale sarà come sempre attorno al 30-35%. The turnout in the capital will be about maybe 30 or 35%, not more. La voce di Gambara Naderi, giornalista di Press TV, raccolta da Ilaria Sesana, che a un certo punto ha chiesto quello che è forse il dato, come dire, di cronaca più rilevante delle ultime settimane, degli ultimi mesi, e quanto questo possa pesare sulle intenzioni di voto. Parliamo dell'uccisione di Soleimani, dello schianto dell'aereo vicino a Teheran, le proteste per la crisi economica. Insomma, tutti questi elementi andranno a influenzare lo stato d'animo di chi vota domani? Well, this is a divided nation and at the moment because of sanctions, restrictions and a lot of... L'Iran è una nazione divisa e in questo momento, a causa delle sanzioni, della grande pressione sul governo e della tensione tra le persone, a causa dell'aumento dei prezzi di beni e servizi, abbiamo un'illusione di comunità, di essere un paese unito. Molte persone vogliono andare a votare, ma ce ne sono molti altri che non vogliono nemmeno parlarne. Ad esempio, gli appartenenti alle classi medio-alte non si sono mai presi la briga di partecipare alle elezioni. Al contrario, chi lavora nel governo e chi appartiene a ceti medio-bassi solitamente partecipa, sia alle elezioni parlamentari sia a quelle presidenziali. Ma se andiamo a vedere quello che accade nelle città di provincia, questo non fa alcuna differenza. Queste persone solitamente votano per il governo e per l'establishment, e sono quelli che sono sempre presenti quando il governo ha maggiore bisogno di loro. Ma nella capitale la posta in gioco è molto alta e le persone sono completamente indifferenti. Non vogliono partecipare alle elezioni. Ho cercato di parlare con alcune di queste persone e loro semplicemente non vogliono farlo. Non vogliono nemmeno parlarne. I tried to talk to many of them, they just don't want to talk about it. La voce di Gambar Naderi, giornalista di Press TV da Teheran, arricchisce il quadro, il mosaico, il racconto di importanti elezioni parlamentari in Iran, importanti per dopo tutto quello che è accaduto nell'importante, scusate la ripetizione, ma stavo rispondendo in qualche modo anche a un ascoltatore che sostanzialmente scriveva: chi se ne frega dell'Iran, l'Iran è un paese importantissimo. È un paese che sta vivendo e sta sostenendo un braccio di ferro con gli Stati Uniti, particolarmente doloroso e nevralgico soprattutto per i suoi cittadini. È il paese che, con una politica molto accorta, l'alfiere di questa era il generale Soleimani, in alcuni casi anche violenta, così osteggiata da Israele, sto pensando a Hezbollah nel Libano, insomma ha allungato le mani e la sua influenza in tutto il Medio Oriente allargato. Ricordate l'attacco all'Aramco, il deposito di petrolio, le installazioni petrolifere saudite? Molto ragionevolmente c'era l'Iran dietro. Insomma, intrecci economici, interessi anche italiani in loco, il braccio di ferro con gli Stati Uniti e un Iran che è diventato a tutti gli effetti una potenza regionale. Così, per rispondere allo scetticismo dell'ascoltatore che insomma sosteneva che non fosse un tema importante. Altri messaggi al 349-238-6666. Uno degli ascoltatori più attenti mi ricorda in questo momento, e ne faccio tesoro, il ruolo in Yemen, assolutamente, nel sostenere i ribelli Houthi sciiti contro invece la coalizione sunnita. Sto assolutamente semplificando in questo momento. Lo stesso ascoltatore: quali ricadute estere possiamo attenderci da queste elezioni? Temo poche, visto come abbiamo stracciato i patti sul nucleare, punendo di fatto le aperture. A ben vedere, riguardando la storia recente, non vi è dubbio che l'uscita di Donald Trump dagli accordi per il nucleare abbia di fatto innescato una nuova escalation, non soltanto nei toni ma anche per esempio nella percentuale di arricchimento dell'uranio, che non è mai stata così alta dal 2015. A proposito di presidenza americana, visto che si va a fare il confronto, un ascoltatore dice: Trump sta pagando gli 8 anni di pessima gestione di Obama. Obama è stato il peggior presidente della storia americana, ma non si può dire perché siamo diventati tutti buonisti. Trump vince a mani basse. Lo stesso Trump, ricordo, che è autore di quel dissolvimento dell'accordo sul nucleare. Negli ultimi mesi Teheran cercava di fare sponda con la Francia, ricorderete l'iperattività del presidente francese Macron e i suoi incontri col ministro degli esteri Zarif. Tra poco proseguiremo nell'analisi con un'altra ospite, ma posso darvi anche notizia, lo chiedeva un ascoltatore o un'ascoltatrice, di come i media arabi stiano raccontando quello che è avvenuto in Germania. Su Al Jazeera, per esempio, però sto parlando della versione inglese, se leggete qualche volta Al Jazeera noterete che la versione in arabo è, come dire, politicamente molto più schierata, quella in inglese è sicuramente molto più neutrale. Comunque titola sulla tragedia di Hanau: trovato materiale profondamente razzista a casa del sospetto, fa parte di un manifesto. Al-Arabia tiene la notizia in apertura: Molte delle vittime in Germania avevano un background da immigrati. Su Middle East Eye: attacco xenofobo a 2 shisha bar in Germania che ha ucciso almeno 9 persone. Questo per darvi una rapidissima panoramica di come anche i grandi network internazionali dei paesi arabi stanno comunque seguendo la cosa. Un'altra ascoltatrice, mentre raccontavamo e continuiamo a analizzare l'appuntamento di domani delle elezioni in Iran, ci ricordava che vi sarebbero 3 manifestanti in Iran condannati a morte. Sui vari siti di news, anche stranieri, non abbiamo trovato nulla. Qualche account su Twitter ne sta parlando, ma non riusciamo a verificarli, quindi continueremo a monitorare anche quell'aspetto. Allora, vi faccio sentire ancora la voce di Gambar Naderi, giornalista di Press TV. Chi è che vincerà queste elezioni? Saranno più i moderati, vicini al blocco riformista, Rouhani per intenderci, le aperture all'Occidente, una retorica un po' meno incendiaria verso gli Stati Uniti e verso Israele, oppure saranno i conservatori che tanto si affidano a quel nemico esterno, a quel Satana, come spesso viene definito? Insomma, sentite l'opinione del giornalista iraniano. Well, definitely the conservatives or the principalists are set to win the elections. Why? I conservatori, senza dubbio, perché c'è una competizione molto debole da parte dei riformisti. Inoltre il governo riformista ha fallito, non è riuscito a mantenere le sue promesse di risanare l'economia o di aprire il mercato iraniano ai beni e servizi provenienti dall'estero dopo la firma dell'accordo sul nucleare. Il governo subisce un'immensa pressione da parte della popolazione che ha perso potere d'acquisto. Quindi molti iraniani non voteranno per i riformisti, perché li considerano responsabili della difficile situazione economica. Questo è il motivo per cui i conservatori riusciranno a vincere le elezioni di venerdì con un ampio margine. E attenzione a una cosa: chi vincerà le elezioni parlamentari e otterrà la maggioranza nel Parlamento deciderà le sorti delle elezioni presidenziali che si svolgeranno l'anno prossimo. Quindi, se vuoi vincere le elezioni presidenziali, non hai altra scelta se non vincere quelle parlamentari. Fino ad ora, i conservatori sono pronti a fare proprio questo. Gambar Naderi sostiene sostanzialmente che vi sarà una svolta conservatrice in Iran. Con quali conseguenze per l'Occidente, per il Medio Oriente allargato? Ve lo racconterò subito dopo la viabilità. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, ma continuiamo a occuparci delle elezioni in Iran che si terranno domani, elezioni parlamentari, a dimostrare quanto vi sia un filo rosso che lega comunque l'appuntamento elettorale iraniano a quello americano. Ne sono prova i tanti messaggi che arrivano al 349-238-6666, molti insistono sull'accordo sul nucleare, quello stracciato da Donald Trump. C'è chi esalta il ruolo di Trump nel gestire in modo migliore la politica statunitense. Fa eco un ascoltatore che ha scritto appena adesso e ha un prefisso inequivocabilmente statunitense, e dice: al signore che dice che Trump è meglio di Obama, prima di esprimersi consiglio di venire a vivere qui negli Stati Uniti, spero non gli capiti niente. Io per 9 minuti di ambulanza ho pagato $2,700, così Michael si firma. Rispondendo all'ascoltatore, la legge sulla sanità pubblica era uno dei cavalli di battaglia del presidente Obama. Chi continua invece a tirare strali su Obama e sul nucleare? Un altro ascoltatore: sul nucleare iraniano, appunto, il tempo ha dimostrato che l'accordo voluto da Obama è stato un disastro, rendendo una guerra più vicina anziché allontanarla, gettando il mondo sunnita nel panico assoluto. Ovviamente il ruvido, maleducato e ignorante Trump rivincerà tranquillamente con pieno merito. Io in tutta onestà non vedo il disastro in quell'accordo nucleare, ma è opinione mia, quindi legittimamente leggo anche le opinioni che dissentono. Detto ciò, andiamo da qualcuno che sicuramente ha un'opinione più ferrata, solida e autorevole della mia. Parlo di Anisè Bassiri Tabrizi, da Londra, lavora al RUSI, è analista, esperta di Iran e anche visiting fellow al War Studies, al King's College appunto di Londra. Tabrizi, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie mille. Grazie a lei per la sua presenza. Allora, partiamo da quel rischio che è molto sullo sfondo, ma neanche tanto, potrebbe concretizzarsi domani. Rischio delegittimazione se l'astensionismo fosse molto alto. Quanto debole diventa quel Parlamento iraniano se in pochi votano? Allora, diciamo che questa è una delle preoccupazioni principali dell'establishment iraniano. Diciamo che questa preoccupazione è comune in tutte le elezioni che si tengono nella Repubblica Islamica, e quindi si parla sempre della necessità di andare al voto e di avere un alto numero di partecipazione da parte degli esponenti della Repubblica Islamica. Penso che in questo caso questa necessità sia ancora più alta, dato soprattutto il recente dinamismo e l'opposizione di certe frange dell'Iran che abbiamo visto a novembre 2019 e a gennaio del 2020. Quindi queste manifestazioni e anche il criticismo nei confronti non solo del governo ma anche del leader supremo e di altri che hanno fatto parte dell'establishment da molti anni della Repubblica Islamica ha determinato grande preoccupazione a livello di diciamo di mantenimento della sopravvivenza delle istituzioni. Quindi le elezioni qua diventano particolarmente importanti. Però da lì a dire che una limitata partecipazione probabile, tra l'altro, possa determinare un calo di legittimità, penso che sia un'eccessiva conclusione. Chiarissimo. La voce che sentite è di Anisè Bassiri Tabrizi, del RUSI, in diretta da Londra, un'esperta di Iran. Anche lei è pronta a vagliare, a capire come si orienterà il voto iraniano domani. Sarà possibile, Tabrizi, convogliare quelle decine di migliaia di persone che sono scese in piazza protestando contro il regime, protestando soprattutto per la crisi economica in cui versa il paese, convogliarle, dicevo, nelle elezioni di domani e dare una risposta anche ai tanti cittadini iraniani che vogliono un cambiamento? È poco probabile che questo avvenga. La ragione principale è il profilo dei candidati che alla fine sono stati diciamo permessi di partecipare e che hanno un profilo principalmente conservatore. E quindi le figure più riformatrici e moderate sono quasi state completamente escluse dalla campagna elettorale. Abbiamo anche un grande numero di membri del Parlamento correnti che sono stati esclusi dalle elezioni. Quindi chiaramente è difficile poi vedere come queste voci possono essere incanalate quando si tratta di riforma, di modifiche, partecipazione elettorale, di questioni economiche che sappiamo che sono state molto di più alla radice di governi moderati rispetto a quelli conservatori, che hanno certamente una linea più populista, certo, risoluzioni immediate, ma non di lungo termine strategica. Certo. L'ultimo punto che volevo toccare brevemente, e mi scuso perché siamo in chiusura, riguarda possibili cambiamenti in politica estera. Diciamo, un Parlamento più conservatore, più orientato all'antiamericanismo, potrebbe cambiare un po' gli assetti e la politica iraniana? Certo, in generale direi che la direzione in cui ci stiamo muovendo è esattamente quella, al di là del Parlamento e delle elezioni di domani, stiamo vedendo una direzione più conservatrice da parte della politica estera iraniana nella regione e altrove, ma soprattutto nelle relazioni con i paesi occidentali, quindi certo, con gli Stati Uniti e l'Europa. Certo. E quindi quello che vedremo nelle elezioni di domani, ma soprattutto nelle elezioni del prossimo anno del Presidente della Repubblica, determinerà un po' la direzione. Detto ciò, dobbiamo anche considerare che le elezioni sono solo uno dei processi che poi influisce nella decisione e nella struttura decisionale della politica estera iraniana. Ci sono molte entità che non sono elette e che comunque hanno, Hanno un loro peso. Io devo chiudere, Anisè Bassiri Tabrizi del Rusi da Londra, ma mi riprometto di riospitarla così spieghiamo meglio la dinamica e la complessità iraniana. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, order. Order! Grazie a voi tutti per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo.